Semino è un progetto di agricoltura sociale che intende coltivare con metodo biologico degli ortaggi che sono tipici dell'alimentazione delle popolazioni migranti oggi presenti in Italia e che hanno soprattutto delle altissime proprietà nutritive, quindi sono ricchi di vitamine, antiossidanti, sono selezionati secondo tre criteri principali. Uno, devono parlare delle culture, delle diverse culture, devono parlare del fenomeno della migrazione e la coltivazione viene fatta facendo inserimento lavorativo di giovani migranti. Due, devono avere delle altissime proprietà nutritive, quindi per recuperare il valore del cibo come anche cura e prevenzione di certe malattie, e dall'altra sono delle colture che noi definiamo resilienti perché insieme all'Università di Agraria ci stiamo rendendo conto che sono delle colture che reagiscono bene soprattutto allo stress idrico, quindi a una somministrazione molto limitata dell'acqua. Poi sono delle colture che hanno forte impatto ambientale perché appunto c'è il discorso delle importazioni che vengono ridotte se questi prodotti vengono coltivati qui localmente in Italia. Per dare vita a tutto questo si è costituita una rete. Sì, si è costituita una rete. Oltre a Kilowatt c'è una cooperativa che si chiama Pictor, una cooperativa sociale che fa già inserimento lavorativo e che ha 3 ettari di terreno a Budrio, dove da qualche mese sta facendo la coltivazione dei prodotti semino e fa inserimento lavorativo anche di alcuni giovani migranti. Poi c'è Local to You, che è una piattaforma e-commerce che vende sia online ma anche attraverso una rete di distribuzione e di consegna i prodotti semino, non solo, ne vende tanti altri, però vende anche i prodotti semino. Poi c'è Rescue Hub, che è un centro di ricerca e studi della facoltà di Agraria, che ci sta seguendo in tutta la fase di monitoraggio e sperimentazione della nella coltivazione. Uno, perché sono delle colture ancora poco conosciute in Italia, quindi da un punto di vista proprio di tecniche di coltivazione. Sono delle colture nuove, ad esempio quest'anno nella stagione primaverile abbiamo coltivato il gombo, o conosciuto anche come ocra, il fagiolo dall'occhio, il daikon e la curcuma. La curcuma tra questi 4 prodotti è il prodotto che per la primissima volta si sta sperimentando la coltivazione in Italia. La curcuma poi adesso ha un'attenzione particolare perché si è appunto scoperto quante proprietà curative ha e quindi è molto interessante produrla in Italia proprio per vedere come la pianta reagisce al nostro clima, al nostro terreno, per poterla insomma mettere sul mercato proveniente da una filiera certa, perché poi il problema delle importazioni è non solo l'impatto ambientale che hanno perché arrivano dalla Spagna come dal Perù, però il problema è che poi cioè il metodo di coltivazione non è ben conosciuto, fanno tanti passaggi prima di arrivare nei nostri mercati. E quindi chi volesse saperne di più come può fare? Allora, c'è un sito web che è www.semino.org, all'interno del quale viene raccontato tutto il progetto, vengono descritti i prodotti ad oggi in commercio, c'è il collegamento alla piattaforma di Local to You che li sta vendendo e la descrizione di quello che è l'impatto che vogliamo generare per adesso a Bologna e poi pian piano la nostra idea è quella di allargare la rete.